140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Teatro Ariston, Sanremo. Successo mondiale con Take Me to Church, torna con un brano e una campagna che in Italia sostiene il telefono rosa. Dall'Irlanda, Ozier. La prima cosa che vorrei chiederti è l'impressione che ti fa Sanremo. It's kind of crazy. Yeah, it's my first time here, obviously. È la prima volta che vengo qui. Certo, l'aria è elettrica. Qui dal terrazzo vediamo il red carpet, pochi piani sotto di noi. Ci sono persone ferme lì davanti tutto il giorno per vedere chi viene, chi va. L'entusiasmo è palpabile. Poi è un giorno bellissimo, il cielo è bellissimo, la vista è favolosa. È la prima volta a Sanremo e sono felicissimo. Very excited, yeah, yeah. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Was everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. I'm alone with you. I was born sick. Qual è il tuo rapporto col successo? I think my relationship with success is to keep it at arm's length. Credo che il mio rapporto col successo sia quello di tenerlo lontano. Credo di essere stato molto fortunato col successo delle mie canzoni, ma penso che si corra il rischio di finire col credere a qualsiasi cosa si dica di te quando le cose vanno bene, anche quando vanno male. I feel like that this release, that this album, although, you know, Take Me to Church, was very much the first thing that I've ever released, and I feel like. Penso che finora io ho pubblicato solo un album e un singolo di vero successo, quindi ho ancora molto da fare e preferisco concentrarmi sul lavoro. Ma certo sono stato molto fortunato. Campaign. I would like to know why did you decide to embrace this campaign? Yeah, there's a few reasons. I mean, the song is about. Ci sono più ragioni per la campagna che accompagna la mia canzone. La mia canzone parla d'amore e amore che passa attraverso una vicenda di abuso e tutta la complessità relativa a una vicenda del genere che si ripete purtroppo spesso. An abusive relationship, which it often does, and the kind of. The difficulty of that, and I mean, I think we had a great potential here to do something with it. We had a. Ho subito pensato che questa canzone ci potesse permettere di fare molte cose, che fosse una piattaforma per studiare delle iniziative importanti. Così io e la mia manager Caroline Downey ci siamo chiesti perché non farlo. Lei poi in Irlanda fa un lavoro fantastico con la ESPCC, la Ireland Child Protection Charity, che lavora in modo simile al telefono rosa, ma soprattutto per i bambini, che ci si possono rivolgere se si sentono minacciati o insicuri. Kind of similar to telefono rosa here, but I mean for children, somewhere they always can call if ever they feel threatened or unsafe. And so, you know, Saoirse Ronan was interested in it as well too, and I think we just had a great potential for it, and yeah, was thrilled. Anche Saoirse Ronan era interessata al progetto e siamo partiti. È una causa importantissima e spesso dimenticata. Questo è stato finora un anno molto tumultuoso, delicato anche per fatti che riguardano la politica estera e i problemi internazionali, ma il problema della violenza domestica è sempre presente, è un problema che non se ne va mai ed è sempre importante che ognuno continui a fare quello che può. I suppose it's important to continue to do whatever you can, I guess. So. Like rum on the fire, hot and fast and angry as she can be. I walk my days on a wire. It looks ugly, but it's clean. Oh, mama, don't fuss over me. The way she tells me I'm her. And she is mine. Open hand or closed fist. Tu e Saoirse Ronan siete un simbolo adesso per i giovani irlandesi. Now she's gonna be at the Oscars. What do you think about it? Yeah, I'm absolutely thrilled for her. I think she's. Sono agitatissimo per la sua nomination agli Oscar. Credo che lei abbia un talento incredibile e che se la sia davvero meritata. Credo che abbia una carriera bellissima davanti perché è giovanissima eppure con la testa sulle spalle, intelligente e talentuosa. Intelligent and talented is amazing and I can't say I'm like, you know, I'm just thrilled. I'm thrilled for her. I think it's very well deserved. L'ultima domanda, quella più importante: come si pronuncia esattamente il tuo nome? Lo so, è complicato e dovunque io vada viene pronunciato diversamente. È un nome di origine francese anglicizzato. So Hozier. So my full name is Andrew Hozier Byrne. So Hozier is what I go as. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Hozier. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.